Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. Gennaio 1971. Caro Michele, è stato molto bello parlare con te al telefono. Sentivo benissimo la tua voce. Osvaldo è stato gentile a venire a prendermi e farmi telefonare a te da casa sua. Così anche lui ha potuto darti un saluto. Mi ha fatto piacere sentire che vai a spasso nei boschi con tutti quei cani. Ti immagino mentre cammini nei boschi. Sono contenta di aver pensato a mandarti gli stivali perché ci deve essere fango e erba umida. Anch'io avrei qui intorno dei boschi se salissi su in alto sulla collina. E anzi Matilde ogni tanto mi propone di andare a passeggiare lassù, ma la sola idea di vedere svolazzare vicino a me la mantella tirolese mi toglie ogni voglia di passeggiare. Però anche sola non mi va di andarci su a quei boschi e le gemelle non vogliono mai venire a camminare con me. Così i boschi io li guardo dalle finestre e mi sembrano dei luoghi remoti. Forse per camminare nella campagna bisogna essere tranquilli, piuttosto contenti. E così io mi auguro e spero che tu sia. Però non capisco cosa hai in testa di fare. Secondo Osvaldo devo lasciarti in pace. Là tu impari l'inglese e ti dedichi ai lavori di casa. E questo secondo lui è una cosa sempre utile. Ma vorrei sapere quando hai idea di tornare. Con Osvaldo sono scesa nello scantinato a prendere i tuoi quadri. Nello scantinato c'era quel tuo amico, Ray, il quale adesso vive lì, come tu sai. C'era anche una certa Sonia, amica di Angelica, una con una coda di cavallo nera. Poi c'erano altri, erano una dozzina. Stavano seduti sul tuo letto e per terra. Quando noi siamo entrati spingendo la porta, che era aperta, non si sono mossi e hanno continuato a fare quello che facevano, cioè niente. Sonia ci ha aiutato a portare i quadri nella macchina, gli altri non si sono mossi. Tutti i tuoi quadri arrivati a casa li ho appesi. Non li trovo niente belli, ma in un certo senso è meglio se non sono belli, avendo tu smesso di dipingere. Osvaldo dice che probabilmente hai smesso per sempre. Il diavolo sa cosa farai ora. Osvaldo dice che non devo pensarci. Qualcosa farai. Mi faceva una tremenda malinconia rivedere lo scantinato. Ho l'impressione che anche a Osvaldo facesse malinconia. Il letto era per aria e ho visto lì le coperte che ti avevo comperato io. Me ne infischio di queste coperte, ma avevo detto a Angelica di pigliarsele. Non è che lei nuoti nelle coperte. Il Natale l'abbiamo passato sole, io e Matilde. Le gemelle erano share a Campo Imperatore. Angelica e Oreste da certi loro amici, Bettoia, che io non conosco, Viola e Elio nelle campagne dei suoceri. Matilde aveva ugualmente fatto una specie di pranzo di Natale, mangiare in cucina. Cloti era andata al suo paese e pensavamo che non sarebbe più ritornata, essendo partita portandosi via quasi tutti i suoi vestiti. Matilde aveva fatto il cappone ripieno con le uvette e le castagne e aveva fatto anche la bavarese. Così avevamo la cucina piena di piatti sporchi, anche perché avevamo la lavastoviglie rotta. Matilde dopo pranzo se n'è andata a dormire dicendo che i piatti li avrebbero lavati le gemelle quando ritornavano. Matilde ha delle illusioni sulle gemelle. Ho lavato i piatti e li ho asciugati. Nel tardo pomeriggio è comparso Osvaldo con la sua bambina Elisabetta e il cane. Gli ho offerto i resti della bavarese. La bambina non ha toccato la bavarese e si è messa a leggere i giornaletti delle gemelle. Osvaldo ha aggiustato la lavastoviglie. Mentre loro stavano per andarsene, è venuta fuori Matilde e si è arrabbiata perché non l'avevo svegliata. Ha detto che lei era andata a dormire per pura noia, dato che in questa casa nessuno viene mai a farci visita. Ha insistito perché loro rimanessero a cena e sono rimasti. Così dopo c'erano da lavare molti altri piatti, essendosi la lavastoviglie rotta di nuovo, subito, con fiotti d'acqua sul pavimento appena l'ho fatta andare. Il giorno dopo, contro ogni nostra aspettativa, abbiamo visto ricomparire Cloti. Ci ha portato una sporta di mele, che Matilde divora a morsi, e dice che ogni mezz'ora lei dovrebbe mangiare una mela per sentirsi veramente in salute. Osvaldo viene a trovarci quasi tutte le sere. Secondo Matilde è innamorato di me, ma è balorda Matilde. Io credo che venga per forza d'inerzia, avendo preso questa abitudine. Prima veniva per ascoltare il romanzo Polente e Veleno, ma adesso, se Dio vuole, è finito. Matilde leggeva con la sua voce rauca e profonda e io e Osvaldo eravamo là, spossati e sonnecchianti. Ora Osvaldo l'ha rifilato a un editore amico di Ada. Pagherò io le spese perché Matilde me l'ha chiesto e io non ho saputo dirle di no. Questo Osvaldo io non lo capisco. Non è antipatico, ma mi annoia. Se ne sta seduto lì fino a mezzanotte. Sfoglia delle riviste, raramente discorre. Di solito aspetta che gli parli io. Faccio qualche sforzo per parlare, ma i miei argomenti con lui sono pochi. Ancora quando c'era Polente e Veleno si dormiva, ma c'era una ragione di stare lì seduti. Adesso io non ne vedo nessuna. Eppure devo dirti che quando lo vedo comparire sono contenta. Mi sono abituata. Quando lo vedo comparire sento uno strano sollievo mescolato di noia. Ti abbraccio, tua madre. Ho chiesto a Osvaldo se quella ragazza, Mara Pastorelli, c'era nello scantinato quando siamo andati a prendere i tuoi quadri. Mi ha detto di no, non è amica di quelli, è di un altro giro. Io le ho mandato dei soldi attraverso Angelica. Secondo Angelica e Osvaldo bisognava mandarle dei soldi perché era in una situazione disperata con quel povero bambino. Adesso a lei hanno dato un posto dal solito editore amico di Ada. Questa Ada è sempre provvidenziale. Gennaio 1971. Caro Michele, ieri è stato aperto il testamento di tuo padre. Questo testamento l'aveva Lillino. Tuo padre l'ha scritto appena cominciato a non stare bene. Io non ne sapevo niente. Eravamo nello studio del notaio, io, Lillino, Matilde, Angelica, Elio e Viola. Oreste non era venuto, avendo non so che impegno al suo giornale. Tuo padre lascia a te un gruppo dei suoi quadri, quelli fatti fra il 45 e il 55, la casa di via San Sebastianello e la torre. Ho l'impressione che le tue sorelle vengano ad avere molto meno di te. Loro hanno quelle proprietà vicino a Spoleto. Molte sono state vendute, ma ancora ce ne sono. A Matilde e Cecilia tuo padre ha lasciato un mobile, la sua credenza barocco piemontese, e Matilde ha subito osservato che la godrà Cecilia perché lei non sa cosa farsene. Figurati che grande godimento ne avrà Cecilia, che è mezza cieca e svanita. La casa di via San Sebastiano, tutto per farci di sapere cosa vuoi farne, se vuoi venderla, affittarla o andarci a vivere. La torre, come sai, quell'architetto aveva già cominciato a farci dei lavori e adesso è tutto fermo. I progetti che tuo padre aveva firmato comportano spese fortissime. Lillino dice che dovremmo andare io e lui a vedere questa torre e i lavori che già sono stati fatti. Lillino questa torre non l'ha vista, ma dice che non sarà mai un grande investimento, perché bisognerebbe fare una strada nella roccia per arrivarci con l'automobile. Adesso ci si arriva solo a piedi, arrampicandosi per un sentiero sulle rocce. Io ho poca voglia di arrampicarmi su per quelle rocce con Lillino. Vorrei che venissi tu a vedere e decidere. Non posso decidere io per te. Cosa decido se non ho capito dove e come tu desideri vivere? Tua madre. 12 gennaio 1971. Cara mamma, ti ringrazio delle tue lettere. Ti scrivo in fretta perché lascio il Sussex e parto per Leeds con una ragazza che ho conosciuto qui. Questa ragazza deve insegnare il disegno in una scuola a Leeds. Io penso che troverò da lavare i piatti e accendere le caldaie in quella stessa scuola. Nell'accendere le caldaie e nel lavare i piatti ho acquistato una grande destrezza e rapidità. Questi due con cui stavo qui, questo professore e sua moglie, sono brave persone e ci lasciamo abbastanza in buoni termini. Lui è leggermente frocio, ma leggermente. Mi ha insegnato a suonare il clarino. Leeds non deve essere un granché come città. Ho visto delle cartoline. La ragazza che seguo, come ragazza, non è un granché. Non è stupida, ma un po' noiosetta. La seguo perché qui ne avevo abbastanza di tutto. Ti pregherei di farmi avere a Leeds con una certa urgenza un po' di soldi. Io a Leeds non so ancora dove starò, ma puoi mandarmi i soldi presso la madre di questa ragazza di cui ti accludo l'indirizzo in fondo. Allo stesso indirizzo mandami per piacere i prolegomeni di Kant. Anche questo lo vorrei con una certa urgenza. Lo trovi nello scantinato. Qui esiste, ma in inglese. Io lo trovo già difficile in italiano. Si troverà forse in biblioteca, ma io non sono amico delle biblioteche. Grazie. Non posso ritornare per ora. In verità, non è che a questo punto non potrei ritornare, ma non ho voglia di ritornare. Nella casa di via San Sebastianello non vedo perché non ci vai a stare tu, dato che mi sembri dalle lettere molto giù di corda e annoiata di stare in campagna. Riguardo alla torre, decidete voi. Non credo che andrò mai a vivere in quella torre, né d'inverno né d'estate. Se non ci vai a stare tu in via San Sebastianello, forse ci puoi far andare quella ragazza che io conosco, Ramazza Pavelli, a cui mi ha donato dei soldi. Ha una casa, come sai, in via dei Prefetti, ma forse ci sta scomoda. La casa di via San Sebastianello è molto comoda. Io ne ho un buon ricordo. Di a Matilde che le faccio i miei vivi auguri per il suo romanzo Polente Vino che sta per uscire. Abbracciami le gemelle e gli altri. Michele. Scrivetemi presso Mrs. Thomas, 52 Bedford Road, Leeds. Gennaio 1971. Caro Michele, mi è successa una cosa molto strana e sento il bisogno di raccontartela subito. Io e Fabio ieri abbiamo fatto l'amore. Fabio è l'editore con la rosa, è il pellicano. Non hai idea come rassomiglia a un pellicano. È l'amico di Ada. Io l'ho soffiato a Ada. Mi ha invitato al ristorante. Poi mi ha accompagnato a casa, perché era festa e l'ufficio nel pomeriggio restava chiuso. Ha detto che gli sarebbe piaciuto salire a vedere il bambino. Ada gli aveva detto del bambino. Le ho spiegato che non c'era il bambino. Io l'avevo portato da quella signora. Ha detto che aveva piacere di vedere la mia casa. Io mi vergognavo del puzzo di cesso che c'è sempre. In più, uscendo, avevo lasciato tutto per aria. Ma l'ho fatto salire perché insisteva. Si è seduto sull'unica poltrona che ha la tela strappata. Gli ho fatto il Nescafè, gli ho dato una tazza di plastica rosa che mi ha regalato una mia amica in una pensione. Non ho altre tazze. Dovrei sempre andare a rifornirmi da Standa, ma non ne ho mai il tempo. Dopo bevuto il Nescafè si è messa a camminare avanti e indietro arricciando il naso. Gli ho chiesto se non sentiva forse un odore cattivo. Ha detto di no. Ha detto che lui ha un naso grande ma non sente gli odori. Avevo rimesso in ordine il letto e mi sono seduta sul letto. Si è seduto vicino a me, così abbiamo fatto l'amore. Dopo io ero proprio stupefatta. Dopo lui si è addormentato. Io guardavo il suo grande naso addormentato. Dicevo, Dio, sono a letto col pellicano. Erano le 5, io dovevo andare a ripigliarmi il bambino. Lui si è svegliato mentre mi vestivo. Ha detto che voleva restare lì ancora per un po'. Sono andata e sono tornata col bambino. Era sempre lì, sdraiato. Ha tirato su il naso per guardare il bambino. Ha detto che era bello. Poi si è rimesso giù. Ho preparato il latte al bambino e mi faceva piacere averlo lì, lui, perché quando preparo il latte non mi piace essere sola. Dovrei essermi abituata, perché sono quasi sempre sola. Ma non mi abituo. Per cena avevo una lombatina. L'ho cotta e l'abbiamo mangiata a metà per uno. Mentre mangiavamo, gli ho detto che lo trovavo identico a un pellicano. Dice che qualcuno gliel'ha già detto. Non si ricorda chi. Ho detto, forse Ada. Ma ho capito che non aveva tanta voglia di parlare di Ada. E invece io sì. Non gli ho detto che la trovavo cretina. Gli ho detto che la trovavo un poco insopportabile. Si è messo a ridere. Gli ho chiesto se aveva mangiato abbastanza. Ha detto che i pellicani mangiano poco. È rimasto tutta la notte. La mattina si è vestito e è andato via. Ci siamo rivisti in ufficio. Era là, seduto col suo dittafono. Quando sono entrata mi ha strizzato l'occhio. Non ha detto niente, però. Mi ha dato del lei. Ho capito che in ufficio lui vuole fare finta di niente. Non mi ha invitato al ristorante. È venuta Ada a prenderlo. Così io adesso ho fame, avendo mangiato da ieri sera solo una mezza lombatina, due cappuccini e un panino. Adesso scendo giù e mi compro del prosciutto. Non so quando ritornerà. Non mi ha detto quando ritornerà. Ho l'impressione che mi sono innamorata. Lui non mi fa niente pena, come certe volte mi facevi pena tu. Lo invidio. Lo invidio perché ha un'aria trasognata, strana e misteriosa. Anche tu certe volte avevi l'aria trasognata, ma i tuoi segreti mi sembravano i giochi dei ragazzi. Lui invece ha l'aria di avere dei veri segreti, che non racconterà mai a nessuno e sono complicati e stranissimi. Per questo lo invidio, perché di segreti io non ne ho neanche mezzo. Era tanto tempo che non facevo l'amore. Non avevo più fatto l'amore dopo nato il bambino. Un po' non mi è capitato nessuno. Un po' non mi andava più. Il giapponese è frocio. Osvaldo di fare l'amore con me non se lo sogna. O è frocio anche lui, o io non lo attiro, non lo so. Ora verrà Angelica a prendermi perché dobbiamo andare da una sua amica che ha una carrozzina. La tiene in un sottoscala e non le serve più. Angelica dice che dovremo lavarla con l'isoformio. Non so se lo racconterò a Angelica del pellicano. La conosco poco e magari si fa l'idea che vado col primo che trovo. Ma forse glielo racconterò perché muoio dalla voglia di raccontarlo. Appena vedo Osvaldo, glielo racconto di certo. Ho soffiato a Ada il suo pellicano. Ti abbraccio, Mara. Angelica è venuta. La carrozzina siamo andati a pigliarla. È un'ottima carrozzina. Angelica ho raccontato tutto mentre eravamo per strada. Angelica mi ha dato il tuo nuovo indirizzo. Mi ha detto che questa città di Leeds, dove sei andata adesso, è una città grigia e molto noiosa. Chissà cosa diavolo sei andato a fare a Leeds. Angelica dice che sei andato per correre dietro a una ragazza. Sono stata subito gelosa di questa ragazza. Non me ne importa niente di te. Ho per te solo amicizia. Eppure sono gelosa di tutte le ragazze che trovi.